cioè nei momenti di chiarezza di certe cose. E poi anche nei momenti di, come dire, che sale questo benessere che pof, di colpo, improvvisamente. Già? Ecco, però, appunto, vorrei dire, però, no, allora, la meditazione, per come la vedo io oggi, è una pratica che per il momento è di elite, non può che essere di elite, cioè di persone che sono già, perché tu prendi una persona con sufficiente nevrosi, è difficile che uno che ci, perché non è nella nostra tradizione, eccetera. Quindi, no, mi sto sempre chiedendo, ma qual è la nostra funzione? Perché noi come Aleph ci troviamo quasi sempre di fronte a questa cosa, che quasi sempre ci viene detto, quella là è la cosa che veramente funziona, quella là è la cosa che veramente funziona, quella lì è quella. Prima è costellazione, certo. Poi c'era questo, poi c'era quella. In realtà io vedo che le cose in Aleph funzionano. E molto bene. Allora io mi dico, io credo che quello che è il compito nostro è di trovare una validazione crociata di queste cose. Ma certo, sicuramente. Sulla quale dobbiamo lavorare, no? Ecco. Perché la mia esperienza che ho visto delle persone meditanti è che la meditazione, se tu hai un inquinante di cui non riconosci la causa, ci continui a girare intorno. Sì, non hai proprio gli strumenti. Io ho visto proprio, ho l'esperienza assoluta di questo. E io ho visto proprio persone, posso, non voglio citare i nomi, ma di persone proprio che hanno fatto questo e che non è successo nulla fino a che non è stato toccato quello, perché la mente da sola, cioè proprio quel tipo di lavoro lì richiede, come dire, un nobile amico o un terapeuta, qualcuno che ti apra gli occhi, che ti dia una mano. Da fuori. A quel punto lì, è questo. Accidenti. Quindi, come dire, credo, mi sembrerebbe un sistema complementare, no? Sì. Come dire, se prendiamo quello che ci insegna l'Oriente, è la via, è su questo, direi che non c'è niente da dire. Che cosa dà il contributo all'Occidente? Che la via può essere, che noi non abbiamo una via, non abbiamo una psicoterapia, ma nella psicoterapia ci sono alcune cose che funzionano e che avvengono però, guarda caso, nella relazione stretta con un'altra persona che ti segue, che non è maestro. Oh no, non è maestro, magari è uno che non ha, però riesce a aiutarti. Quindi la domanda che ci stiamo facendo qui da tempo è: com'è che possiamo creare questo? È la domanda fondamentale. Complementarità, È no? la domanda. Per cui la via è indicata, secondo me, infatti ne parlavo anche oggi con Carolina, proprio per me la visione, semplicemente anche solo la visione buddista mi dà un senso di serenità. Il fatto di sapere che c'è, che queste cose che stiamo dicendo le ho viste, le ho sentite, per cui ne ho la percezione assoluta. Che la psicologia non dà assolutamente. La psicologia è tutta una serie di cose che alla fine poi. Però le tecnologie che si possono trovare e che la PNL ha sono rapide e a volte quindi mi chiedo, la sfida nostra è in che modo possiamo, ma mi sembra che siamo sul percorso, unire queste due forze. Ma perché intanto vedi una cosa molto bella, che mi piace questa idea del quarto d'ora. Ora, se per esempio una persona facesse la PNL, cosa del nostro, e facesse tre momenti al giorno di un quarto d'ora, o due al Per giorno di un esempio, quarto anche d'ora, uno o anche facessimo uno di un quarto regolarmente, d'ora, sarebbe di un tanto. quarto d'ora, molta scuola, conoscenza, know-how, molta informazione, poi impegni, tutto quello che viene fatto con la PNL, e dei momenti di concentrazione. Momenti di richiamo, di Sì, presenza. di Che poi presenza, avvengono perché sempre di più quando tu poi una capisci. persona dopo che le fa un po', dopo gli viene voglia, le vuole fare di più, va bene, Ma non solo che fa più come tempo, ma utilizza tutti i tempi morti della giornata che Sì, sono sì, tantissimi, sì. capisci? Ti dicevo, quando tu impari che cosa significa meditare, non è solo stare sedute a gambe incrociate. Tu puoi meditare mentre stai facendo una fila, mentre stai fermo al semaforo, capisci? Puoi meditare in tutte le situazioni, in una sala d'attesa, in tutte le situazioni dei tempi morti della giornata che sono infinite nella vita di oggi, voglio dire. Devi aspettare qualcuno, invece di innervosirti, di stare lì e dire, ecco lo solito, quando arrivi. Quella è un'occasione per Sei meditare, consciente sul capisci? respiro, Ti cominci a lasci andare, liberi la osservare mente, ti riporti nella presenza, nel qui fisicamente. e ora. Esatto. Se c'hai una mente troppo agitata, fai della metta, magari rivolta a te stesso o rivolta alla persona in cui in quel momento ti stai caricando di negatività Sì. verso quella persona, lo stai giudicando, Hai stai vedendo la persona. delle operazioni, delle Ma cose fai che puoi tutta una fare. serie di strumenti, ti offre la Cosa meditazione. fai della metà? Ma amorevole gentilezza. Prati di benevolenza, sì, benevolenza. Prati la benevolenza, eccetera, no? O amorevole gentilezza verso te stesso, se quello ti è il momento che aiuta di più, no? Perché non riesci a fare la presenza perché magari sei troppo agitato. Quindi ti offre una serie di strumenti che tu ti accorgi che nella vita quotidiana puoi applicare tanto. Ovunque. Dopodiché, quando incominci a capire quanto ti dà questo, se prima passavi 2 ore al giorno davanti al televisore, poi magari ne passi una e scopri che c'è il piacere è quell'ora che guadagni di fare qualche cosa di più creativo. E noi diciamo spesso non ci abbiamo tempo, perché, o perché sono troppo stanco la sera, o perché dopo così. Ma non è vero, sono balle. Quando tu scopri che quando sei stanco morto e ti siedi a meditare, dopo 10 minuti sei più carico di prima. Una volta che hai imparato quello, capisci? Allora tu capisci che a che ti serve stare lì a guardare la televisione, capisci? A che ti serve continuare a mettere altre cose quando già ce ne abbiamo tantissime, troppe, dobbiamo solo buttare fuori tanta spazzatura per essere più puliti, più creativi, eccetera. Quindi le mille droghe della nostra vita, che la vita ci propone, gli stimoli continui ad aggrapparci a qualche piccola compensazione di qua e di là, si cominciano a ridurre. E man mano che si ridurre quella dispersione incredibile di energia che noi abbiamo, la possiamo canalizzare in un modo, capisci? Quindi questo. Poi, per rispondere alla tua domanda, o alla tua obiezione giustissima, come dire, c'è tanta gente che medita da 40 anni ed è più schizzata di prima, o non gli ha fatto assolutamente niente. Io penso di essere una testimonianza nella mia vita anche di questo, cioè di quanto la meditazione non riesce a cambiare la tua vita, anche se tu ci credi con tutta l'anima e persino se hai verificato che funziona, voglio dire, però c'hai dei problemi che non sei riuscito a risolvere, che ti porti appresso e che la meditazione non te li offre come strumenti, per esempio, o che te li offre ma tu non sei in grado di prenderli perché sei in una cultura dove tutto questo non lo capisci. Capisci? Perché noi stiamo esportando in una cultura qualcosa che nella sua cultura originaria c'ha una base etica, c'ha tutta un'educazione di base, c'è tutto una, il contesto sei sostenuto da tutto un contesto sia educativo, sia affettivo, sia etico a tanti livelli. Da noi questo lo importi, allora capisci, io per esempio avevo tutta una serie di convinzioni nella mia vita che erano nevrotiche, erano disfunzionali, non mi aiutavano, mi portavano ad avere una vita disordinata a livello affettivo, a livello sessuale, a livello di lavoro, a livello di altre cose, capisci? Quindi tutta una serie di convinzioni nella mia vita sbagliate, risultato della mia generazione, della mia della cultura che nella quale sono cresciuto, cioè tutto quanto questo, più problemi con i miei genitori molto grossi, con la mia famiglia, altre cose, voglio dire, che con gli anni sono peggiorati sempre di più, e tutti questi non me li risolveva la meditazione. E Corrado, che è stato il mio insegnante, che per fortuna era psicoterapeuta, mi diceva: guarda che tu hai bisogno di fare un periodo di analisi, perché devi fare un lavoro su di te. E posso dire che per me l'analisi è cominciata contemporaneamente ai primi veri ritiri di meditazione, periodo in cui ho fatto 6 mesi di ritiri, avevo fatto prima 6 mesi di analisi. Quindi, quando poi sono andato nel ritiro, ho visto il risultato di quei 6 mesi di analisi e l'ho potuto mettere a profitto, perché in quei 6 mesi di analisi il contatto con i sogni, col subconscio, per quanto potesse essere limitata un'analisi junghiana, sia pure fatto con un analista bravo, famoso a Roma, eccetera, per quanto fosse limitata, oggi non rifarei più quel tipo di lavoro lì, però comunque mi aveva dato maggiore consapevolezza di me stesso e di tante cose. Questa consapevolezza, quando ho fatto 6 mesi di ritiri, mi ha aiutato tantissimo, tantissimo. Poi non era bastato quel lavoro, per cui sono tornato dai ritiri e ho fatto la pratica regolare per un periodo e poi piano piano ripreso dalle mie nevrosi e dai miei problemi di vita oggettivi, voglio dire, campavo facendo l'insegnante di yoga con 400.000 al mese, vivevo in case dove non mi potevo permettere di pagarmi manco il telefono, non c'avevo la macchina perché non me la potevo permettere, o altre cose, quindi avevo una vita, andavo a lavare i piatti la sera nei ristoranti degli amici per guadagnarmi qualcosa da mangiare, per cui io ho passato un periodo della mia vita in cui non avevo più rapporto con la mia famiglia e ero poverissimo, assolutamente poverissimo, vivevo di niente, vivevo in condizioni, però poi il risultato non avevo una vita affettiva normale, una serie di cose, tutto questo mi sballava incredibilmente, alla fine non riuscivo più a fare la pratica e ci stavo 2 volte male, perché Stavo male perché mi sentivo indegno, anche perché sapevo quello che dovevo fare e non ci riuscivo, capisci? E quindi avevo bisogno di aiuto su altri piani, ad altri livelli. E perché l'altra volta gli dicevo, per me la scoperta delle subpersonalità in PNL è stata una cosa importantissima, perché le subpersonalità, io non voglio dire che siano la verità assoluta, è un modello efficace, però è un modello che ti consente di riconoscere in te, come l'abbiamo visto nel gruppo, quali sono queste caratteristiche, le risposte, e tu dici, ma io c'ho anche questa, c'ho anche qui, c'ho anche quest'altra. Allora comincia a capire che tante tue dinamiche, tanti rapporti che falliscono nella tua vita non dipendono solo dagli altri, come tendevi a dire, ma dipendono anche dal tuo modo di reagire, certo, alle situazioni, certo. Cominci a vedere meglio, hai una base, dei modelli interpretativi del mondo in cui vive che la psicologia ti dà, e che sicuramente l'Oriente non è in grado di darti, anche perché il Buddha non era in grado di parlare di quello che succede oggi nel 2000, voglio dire qui da noi, e che è completamente diverso da quello che succedeva da lui 2500 anni fa. Quindi abbiamo bisogno anche di aiuti, modelli, certo, che sono diversi, il che non vuol dire che la meditazione va cambiata, secondo me, nel mio punto di vista, per essere, come dire, adattata, o perché ci sono metodi più efficaci o altre cose. Secondo me quei metodi sono efficacissimi a quel livello e vanno fatti come sono stati sperimentati per 2000 anni. Secondo me funzionano così. Va integrata. Va integrata con altre cose, perché c'è bisogno di altre cose, c'è bisogno di conoscenza, certo, c'è bisogno di capire come funzioniamo meglio e di capirlo in un modo scientifico e di capire perché un certo tipo di comportamento è funzionale, perché un altro è disfunzionale, e di capire che cosa è nevrotico nel tuo modo di vivere, che cosa è, capisci? Tutto questo, una buona psicologia, soprattutto fatta nel gruppo dove tu vedi questo, che è molto più efficace secondo me di quella individuale, perché l'insegnante magari fa una... Io tante cose le ho imparate nei corsi di PNL, non su di me, ma vedendo il lavoro di un altro, vedendo un esempio di qual era, come funzionava un modello paranoide, un modello narcisista, un modello fobico, vedi un altro che lavora e tu dici, ma quello sono io, capisci? Ti riconosci senza avere resistenza in quel contesto, lo vedi da fuori, quindi ti cadono tutte le resistenze. Per cui per me il modello PNListico del insegnare come funziona, fare un esperimento con qualcuno che si riconosce in quel problema o vuol provare quella tecnica per lavorare, poi insieme vedere questa cosa mentre ciascuno ci lavora nel gruppo e impara a lavorarci anche con altre persone alla sua pari, per cui non ci sta il problema dell'analista, esatto, di altre cose, cioè, per me è un modello, a me mi ha dato tanto, io l'ho trovato molto efficace, e secondo me questo modello si può perfettamente integrare senza che l'uno vada, abbia la pretesa di modificare l'altro, certo, o di, ma semplicemente sposandosi come due cose che si aiutano reciprocamente, complementari, sono complementari, ecco, così, certo, ciascuna con la sua qualità, ciascuna con la sua unicità in un certo senso, la sua bellezza, diciamo, anche, no? Ecco, volevo dirti una cosa, fare una domanda proprio, una riflessione.